Allora, buon pomeriggio a tutti. Siamo in diretta dal camper della salute del progetto Pending e siamo qui, io sono Giulio, vicino a me c'è Camel, Allag. Ciao Camel. Ciao, buonasera. E in giro a fare l'attività di sensibilizzazione. Oggi pomeriggio c'è anche Nina Iboeva. Camel e Nina sono due mediatori culturali della squadra dei mediatori culturali del progetto Pending. Camel, oggi siamo stati alla questura, è giovedì pomeriggio. Che cosa accade il giovedì pomeriggio alla questura di Salerno? Allora, oggi la questura, c'è il ritiro del permesso di soggiorno. Allora, c'erano tanti furi e abbiamo visto che hanno dato 120 numeri per ritiro di permesso di soggiorno e abbiamo visto delle difficoltà, senso alcuni stranieri che arrivano poi non sono stati fortunati a prendere il numero e soprattutto con, abbiamo visto con i bambini, sono arrivati da lontano, alcuni da Agropoli, varie parti, Ebole, eccetera. Direi quello che ho notato, l'organizzazione, anzi io approfitto di fare questo appello alla questura di Salerno perché vedo che l'organizzazione non sono tante organizzate bene per le pratiche, anzi per gli appuntamenti, per il ritiro di permesso di soggiorno ci vuole troppo tempo, danno appuntamenti a lungo. Il Covid ha aggravato un po' la situazione, sì. Perché per esempio noi siamo in giro con il camper ormai da quasi 3 mesi, no? E l'appuntamento della questura, che è aperta il giovedì pomeriggio e il lunedì pomeriggio, giusto? Sono sì, i due pomeriggi che la questura riceve e per la consegna dei documenti e per le pratiche. Abbiamo visto persone che stanno sotto al sole, no? Ad agosto sì. Li abbiamo trovati con 40 gradi sotto al sole e oggi c'è stato un bel acquazzone, sembrava sì. Ancora un acquazzone estivo. Per come è fatto, stanno chiedendo alle persone di aspettare davanti all'ingresso perché non possono far accedere tutti, quindi la scena che uno si trova davanti è di tante persone sì. Sparpagliate vicino alla piazzetta che è antistante alla questura e sono lì con qualsiasi condizione meteorologica, non ci sono spazi sì. Per proteggersi né dalla pioggia sì. Né dal caldo ed esce fuori un funzionario della questura che con la mascherina urla i numeri sì, sì. che vengono presi prima. Quindi tutte le persone sono rivolte, chiaramente hanno la massima attenzione verso il funzionario sì. Della questura che urla questi numeri, poi senza con la mascherina diventa tutto un po' più, ancora più complicato. Oggi sì. Era una giornata, c'erano veramente tantissimi bambini. Sì, ho notato questo, tanti bambini, mamme, ho visto mamma con 2 bambini, 3, e io questo che ho notato, abbiamo notato, io spero che la questura si rendi conto riguardo a queste cose, io penso che dovrebbero dare una precedenza a queste mamme con i bambini, perché oggi col quazzone, con la pioggia, fuori veramente sono bagnate, ho visto che scappino dappertutto. E questo è vero, il Covid ha peggiorato tutto, non funziona bene tutto, non funziona come una volta e spero che si organizzino meglio al futuro. E questo no, è vero, questo appena. Sì, questo oggi insomma con l'acqua che c'era per chi aveva dei bambini nel passeggino in braccio, sì. No, erano quasi tutti bambini molto piccoli, Era una situazione di, si vedeva di grande disagio. Per ritirare oggi si ritirano, no, è solo, sì, per ritirare i documenti. E, ecco, insomma, questa, siamo andati lì con il camper perché arrivano persone da tutta la provincia di Salerno, ma non solo. Sì. Alcuni giovedì fa abbiamo trovato, sì, anche un gruppo di persone che era arrivato dall'Abruzzo. Perché, sì, non è detto, cioè anche le persone, gli stranieri che vivono adesso attualmente fuori regione, sì, magari fanno riferimento per, sì, la loro pratica dei documenti, è per giusto, motivo, no? Come, sì, per motivo di lavoro o altro si trovano fuori la provincia e quindi quando scade diciamo, il permesso di soggiorno sono costrette a tornare perché come la residenza è rimasta alla provincia, quindi tornano a fare il rinnovo del permesso di soggiorno. E certe volte non riescono proprio di arrivare in tempo, devono ritornare un'altra volta e sempre presente la stessa difficoltà. Spero che le cose vanno meglio al futuro e queste devono cambiare qualcosa, non lo so. Cioè... Adesso aspettiamo anche Nina che sta parlando con un'altra, con una persona qui in una panchina a fianco. Dove ci troviamo adesso. Camel, l'altra volta che eravamo lì abbiamo visto una donna che è uscita e piangeva, fortunatamente erano lacrime di gioia, si stringeva vicino al suo partner, il suo compagno, non lo so, era una persona che lei abbracciava con delle lacrime di gioia. Che cos'è il permesso di soggiorno? Per una persona come me che è italiana, non ha mai fatto una trafila del genere per avere un documento, che cosa rappresenta, che cosa... Perché per uno straniero il permesso di soggiorno rappresenta una sicurezza, perché la persona finalmente può essere libero, può lavorare, può studiare, può fare cosa che ha sognato per il suo futuro. E una cosa, il permesso di soggiorno è una cosa importante per avere i diritti, e questo, perciò la ragazza quando è uscita è contenta e ha abbracciato il suo, diciamo, suo compagno, perché può pure ritornare al suo paese a abbracciare e a sua famiglia e ritornare, perché uno diventa regolare, nel senso che ha tutti i diritti come un straniero, come un italiano, la stessa cosa. In genere quanto tempo passa per avere il permesso di soggiorno? Dipende da che cosa il tempo di attesa? Dipende sempre dalla questura, diciamo adesso i tempi col Covid sono allungati di più per avere un permesso di soggiorno, fra un appuntamento, il momento che fai la domanda e ritiri il permesso di soggiorno, cioè, possono passare 6 mesi o più. Dipende dal paese di provenienza? Dipende sempre dalla questura a questo momento, sempre, perché col Covid un po' sono rallentate un po' le cose, ma dappertutto, insomma. Oggi c'erano sicuramente più di 120 persone davanti alla questura. Sì. 120 sono i numeri, biglietti, i numeri massimi, che la questura ha consegnato prima, e poi, sì, c'è questa lunga attesa. Noi eravamo presenti lì, sì, intorno all'una e mezza e c'erano già una fila abbastanza lunga, le persone si erano già cominciate a riunire, sì, per ritirare i numeri, e siamo andati via. Ci siamo spostati dalla questura qui, sì, a Piazza San Francesco pochi minuti fa, intorno alle 17, e le persone che abbiamo visto all'una e mezza, sì, erano, tanti di loro erano ancora lì aspettando, insomma. Ci sono persone, ci sono alcuni sono riusciti a ritirare il permesso di soggiorno, altri no. perché non ce l'hanno fatta, quindi devono ritornare. Ma sono rimasti lì a provare, a chiedere piaceri a gente se possono farli rientrare dentro per ritirare il permesso di soggiorno, perché sono arrivati da lontano e alcuni non hanno la macchina, quindi usano i trasporti pubblici, quindi non sono riusciti ad arrivare in tempo e purtroppo funziona così. No, certo, è per il momento è andata così. Io, Camel, nel frattempo abbiamo fortunatamente il sole, sì, il sole negli occhi, la pioggia di ieri e di oggi, sì. ce la fa dimenticare, ci sta asciugando. E vabbè, Nina sta dando ancora delle informazioni rispetto al progetto. Chiaramente, come ricordavamo anche nella prima puntata, il progetto Vending nella provincia di Salerno e nella provincia di Avellino si sta occupando di offrire un'alfabetizzazione sanitaria di base a chi ne ha bisogno, agli stranieri che vivono sul territorio, e offre anche un servizio di consulenza, di mediazione durante le visite mediche. Il progetto ha come capofila l'ASL, il consorzio La Rada, CIDIS, sono i partner del terzo settore che stanno offrendo il servizio di mediazione e di formazione agli operatori del territorio, e parallelamente si sta portando avanti una ricerca sulle condizioni di salute mentale dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza, che è stato rivoluzionato anche negli ultimi anni, è stato sotto l'occhio del ciclone e ancora oggi è uno dei temi più caldi della politica. In Unione Europea si è parlato ieri, hanno discusso il nuovo delle proposte per riformare le politiche rispetto ai migranti. Le prospettive proposte non sono quelle che ci si aspettava dopo i tristi fatti degli incendi di Moria a Lesbo, i tanti morti che continuano a esserci nel Mediterraneo, e chiaramente vedremo come evolve la situazione anche per i paesi di primo sbarco come Grecia e come l'Italia. Questo è quello che con Vending stiamo facendo al di là del Covid. Stiamo seguendo le attività in strada del camper, che sta dando delle informazioni di base e sta dando mascherine alle persone. Potete immaginare che ci sono tante persone che non hanno magari accesso a internet, sì. non riescono ad essere informati sulle ultime leggi, sulle novità che ci sono, magari ecco, sono lasciati indietro rispetto alle informazioni che ci sono nel marasma di quello che si può trovare in internet, dove tante volte sì. ci sono anche fake news e informazioni scorrette. E di oggi, oggi che è anche una giornata particolare per i migranti, la regione Campania ha decretato anche l'utilizzo della mascherina per tutti all'aperto. Ci ha raggiunto Nina, che stavi facendo? Nina è molto imbarazzata di parlare al microfono, questo lo diciamo per metterla al suo agio. Ciao Nina. Ciao, buonasera a tutti. Ok, Nina, ciao. Nina era molto imbarazzata, quindi io credo che lei si sia lanciata sulle persone qui attorno, alle sue connazionali, per sfuggire alla diretta di Radio Antenna Migrante. Sì, alla fine sono tornata comunque. Per forza, io ho allungato il brodo, ci ho provato, sono diventato anche noioso per dire ok, ora aspetto, arrivo, okay. Prima o poi tornerà, finirà di dire. Perché siamo in Piazza San Francesco, Nina? Che cosa accade qui, se lo possiamo descrivere alle persone che non conoscono questa piazza, non sanno perché il giovedì noi siamo in giro? Oggi è giovedì, per gli stranieri, soprattutto le signore e i signori che fanno i badanti, hanno giornata libera, escono, diciamo, incontrano i suoi compaesani, fanno dei servizi che non riescono a fare durante la settimana. Ci sono persone prevalentemente di nazionalità? Io ho incontrato georgiani, miei compaesani, ucraini, rumeni, sì. E la piazza qui è, insomma, è da diversi giovedì che noi veniamo qui il pomeriggio, qualche faccia la conosciamo ormai. Sì, incontriamo spesso stesse persone che passano il pomeriggio qua, di giovedì, e anche nuove persone che sì, da poco sono arrivati, non sanno come muoversi, come funziona, come integrarsi. Adesso ho conosciuto una signora che è arrivata da poco e mi spiegava che ha difficoltà, che non riesce a parlare, riprendere la lingua facilmente. Poco fa viveva in Grecia, lì è riuscito un po' a integrarsi, a muoversi, e qua proprio sta dicendo che si è bloccata, è un po' trova difficoltà. Stavo parlando che ci vuole tempo e piano piano riprendere anche la vita quotidiana anche qua magari. Certo, no, non è facile innestarsi in un paese nuovo. Stavamo parlando qui con Kamel di quello che troviamo in questura, quando è la nostra prima tappa del giovedì, quando vengono consegnati i documenti, e troviamo persone provenienti da paesi molto diversi. Sono tutti lì in attesa del documento. Ho chiesto prima a Kamel di... io ricordo quella scena di quella signora che è uscita dalla questura con le lacrime di gioia, no? Liberata, contenta. Ho chiesto a Kamel di provare a descrivere a chi come me non ha mai dovuto fare questa trafila che cos'è il permesso di soggiorno, cosa rappresenta, e che faccia a te anche la stessa domanda: cosa vuol dire essere senza documenti, trovarsi in una situazione di estrema incertezza? Prima cosa, avere il permesso di soggiorno che ti dà libertà, libertà anche del pensiero, che sai che appena poi avrai possibilità di ritornare a trovare i familiari. Questa nostalgia è forte, soprattutto all'inizio, è molto dura. Poi praticamente dipende quel tipo, per un anno, per due anni che hai, sempre hai paura di non perdere il lavoro che ti dà possibilità di avere permesso di soggiorno, aggiornare, eccetera. Carta soggiorno, questa è festa per noi stranieri, che ti dà libertà, in senso che hai preso e sei libera per tanto tempo, non devi fare queste procedure un po' lunga, antipatica, anche molto stressante, diciamo, e ti dà libertà veramente, ti dà possibilità di spostarti, sei più serena. L'iter dura, Kamel diceva, no, dura tanto tempo, vengono prese anche le impronte digitali. È una trafila lunga che dura tanto. A te è capitato che per un errore... Sì, ho dovuto aggiornare, aspettare altri 4 mesi, e quindi è molto dura. Per avere la patente? Sì, perché praticamente non mi davano fare l'esame. Per questo ho dovuto aggiornare, c'era un errore, mi hanno scritto luogo di nascita, ci mancava I, e per questo ho dovuto aggiornare. Ho aspettato, dovevo fare l'impronta tra 3 mesi, scusami, poi dopo 3 mesi, circa 40 giorni per ritirare il permesso di soggiorno, perché motorizzazione non mi dava permesso di fare l'esame. No, è una cosa, soprattutto quando è un errore che non hai fatto tu e devi rifare, hai sbagliato qualcuno altro, però... Ne paghi tu le conseguenze, sì, aspettando mesi, cioè qui i tempi di attesa si contano in mesi, no, Kamel? In mesi sono mesi, sì, e soprattutto tempi, adesso sì. Dopo Covid è peggiorato la situazione, peggiorato. Perché conosco delle persone che hanno fatto aggiornamento di... rinnovo di permesso di soggiorno ad agosto e le impronte devono fare fino a dicembre, quindi è un'attesa molto lunga. E Nina, ci sono state da poco le elezioni, no? Il fine settimana scorsa. È una cosa che ti manca non poter partecipare in un modo più attivo, oppure è una cosa che non ci pensi? Non... No, per il momento non ci penso, in verità, perché devo fare altri passi per avere la cittadinanza, diciamo, che sto facendo. Mm-hmm. E quindi vabbè, è una cosa che ti sembra ancora non per me è presto ancora, quindi okay. Non pretendo per momento. Ok, ok. Beh, quali tempo. Camel, tu invece come la vedi? Io le vedo da un po' di tempo che già sto votando. Per te è diverso. Cittadinanza è diverso e quindi ti senti però cioè non lo so, è una cosa importante secondo te? O... Per me sì, penso che una cosa importante, pure il mio voto può cambiare, diciamo. Io così, ogni volta che vado a votare c'è una speranza, dico magari si cambia verso il meglio e quindi mi sento così. E così, ogni volta che vado a votare dico speriamo si cambiano le cose verso, verso il meglio. Speriamo, vabbè, è importante soprattutto in questa fase di Covid che la società sia tutta più unita per cercare di far fronte a piccole e grandi difficoltà anche organizzative dei servizi, dall'ASL alla questura alle scuole che in tanti comuni della Campania apriranno il 28 settembre. E come dicevamo prima, da oggi ritornano ad essere obbligatorie le mascherine anche per strada. Davanti alla questura erano tutti sì, molto attenti anche a questa indicazione. Qui forse in piazza la voce ancora non è arrivata, perché in tanti vedo che, infatti, chiusa la diretta ci dobbiamo dare da fare per disperderci e dare appunto le informazioni più corrette. E stanno aumentando i casi positivi sia tra gli italiani che tra gli stranieri. E chiaramente chiudiamo questa diretta facendo migliori auguri a chi è in attesa del tampone, dei risultati di qualche test. Tenete duro a chi è malato, a chi è portatore sano, a chi si trova a lavorare in condizioni di in condizioni difficili, perché a contatto in contesti a rischio ne stiamo incontrando tanti in questi giorni, ed è una situazione di stress che va avanti da tanti mesi, quindi chiudiamo questa diretta con un tenete duro e avanti tutta, insomma, forza. E noi ci sentiamo anche la settimana prossima con il camper, non so ancora bene dove saremo. E quindi buona serata a tutti. Grazie. Ciao. Ciao a tutti.